E allora buonasera a tutti, come state? Sono da poco passate le 7, questa è la nostra cura radio. Oggi è mercoledì, iniziamo la settimana insieme, staremo insieme questa sera, domani sera e venerdì sera. Io sono Mattia e con me da Caldonazzo via Skype c'è Francesca. Ciao Francesca! Ciao Mattia, come stai? Allora, siamo pronti per iniziare questa settimana di cura radiofonica? Siamo pronti, io sto bene, anche se qui ieri c'è stato un po' un allarme, c'è stato un allarme per una busta è stata una cosa molto strana, ve la racconto perché secondo me è abbastanza significativa del momento che stiamo vivendo. Stavo andando a fare la spesa, ecco, lo sottolineo, non stavo andando troppo lontano, perché no, magari qualcuno ci sente e si arrabbia. E nella stradina dietro il mio condominio ho visto un certo movimento, è arrivata una macchina della polizia, due poliziotti, devo dire che non erano molto di buon umore, a vederli. Hanno tirato fuori un cartello, hanno chiuso questa stradina condominiale e io ho cercato di capire che cavolo succedeva e un vicino mi ha detto: ma hanno trovato una busta sospetta. Poi, ricostruendo, mi hanno detto che due abitanti del condominio avevano ricevuto una busta senza mittente, ma con il loro indirizzo e chissà perché avevano pensato che poteva essere qualcosa di pericoloso. Insomma, un momento di ansia, che viene vissuta anche in questo modo qui, Francesca. Sì, non c'è molto relax in giro, mi sembra di capire. Non c'è Adesso con. molto relax, non c'è molto relax, devo dire, la gente ha paura, anche se ci sono segnali di riapertura, diciamo c'è un po' un'ansia generalizzata. E a proposito di questo, se sei d'accordo, io vorrei far subito sentire un piccolo audio che poi lo commentiamo perché tu mi hai detto delle cose interessanti. Senti. Vai, Mattia. Di salute e sicurezza, si ricorda l'obbligo di rimanere in casa nel rispetto delle istruzioni impartite per l'emergenza coronavirus. Uscire esclusivamente nei casi previsti. A livello nazionale un nuovo Ecco, numero di Francesca, dalle buste Ma mi fai bomba venire ai. quasi nostalgia, mi fai venire, perché ormai sembra un tempo lontanissimo quello in cui i pompieri giravano per le nostre strade urlando dai loro megafoni di stare in casa. Adesso, almeno qua a Caldonazzo, sono parecchi giorni che non si sentono e questo probabilmente fa capire che un pochino si stanno allentando le tensioni, i controlli o comunque questo clima vagamente surreale, distopico che stavamo vivendo, sta prendendo delle altre colorazioni, perché non sappiamo se stiamo andando verso un miglioramento o verso un peggioramento. Tu che ne pensi? Oh, tra l'altro tu mi dicevi, mi raccontavi che avevi notato anche una certa, diciamo così, personalizzazione nei messaggi della protezione civile che eravamo abituati a sentire nella nostra. Cioè, ognuno ci metteva il suo tocco. Sì, anche perché innanzitutto ho capito che non tutti erano pre-registrati, no? Alcuni erano detti in diretta e nel silenzio così cristallino che si era creato nelle nostre strade, appunto non si muoveva nessuno, si riuscivano a percepire proprio le inflessioni, a volte tristi, a volte imbarazzate, a volte stanche, di questi pompieri che così in maniera più o meno energica e appassionata ci dicevano appunto che dovevamo stare tutti in casa, recintati insomma nei nostri spazi. Dunque, bombe finte, bombe nelle buste, molta ansia, messaggi della protezione civile. Ecco, forse l'atmosfera si sta rilassando un po', sembrerebbe che presto ci saranno riduzioni della limitazione. Oggi ci sono due eventi da ricordare, Francesca, due eventi molto diversi tra loro. Inizio io perché ci tengo Dai, fai tantissimo, vedere che sei sul pezzo, È il Mattia, mio dai. momento questo, no, è importante, sono 150 anni dalla nascita del compagno Lenin, lo celebriamo perché non lo fa nessuno, a parte naturalmente il manifesto, almeno lo celebro io, poi Francesca non so tu cosa ne pensi, ma vorrei dire prendendo le parole dal compagno Leni, la rivoluzione è la festa degli oppressi e degli sfruttati. Ecco, loro nel 17 trasformarono la guerra in rivoluzione. Io non credo che alla fine di questa, che non è una guerra, ma di questa emergenza che stiamo vivendo, ci sarà una rivoluzione. Peccato, dico io, ma certo alcune cose le abbiamo imparate sulla nostra pelle, che questo sistema non ci difende, il neoliberismo è un dogma, ha distrutto la sanità pubblica e non ci aiuterà a ripartire dal punto di vista economico e sociale, e questo credo che molti di noi l'abbiano imparato. Quindi, in memoria del compagno Lenin. E ti immagino in piedi e col pugno alzato, Non ho non so se lo osato porti, far partire il coro dell'Armata Rossa, ma. però ti vogliamo immaginare così, insomma, con lo sguardo verso l'orizzonte. Ma io invece voglio ricordare, e non sono originale in questo, però quello che è oggi 22 aprile, cioè la rivoluzione, un altro genere di rivoluzione. Oggi è la giornata mondiale della Terra, sono i 50 anni, di questa giornata, che chiaramente prende una colorazione molto particolare per quello che stiamo vivendo, e tutto sommato poteva essere una rivoluzione, ma noi non perdiamo la speranza perché siamo, delle persone che vogliono pensare che le cose possono cambiare. Però sicuramente possiamo fare una riflessione profonda. Sono 50 anni dalla nascita di questa giornata dedicata alla salute del pianeta Terra. Sappiamo, ci ricordiamo, insomma, che questo 22 di aprile del 1970 nasce anch'esso da una crisi. Erano gli anni del Vietnam, della crisi petrolifera, e in America, negli Stati Uniti, si vuole costruire questa giornata proprio per fare una riflessione a tutto tondo, e nascono le prime riflessioni sull'ecologia, cioè l'economia del pianeta Terra. E oggi ci troviamo a festeggiare questa giornata, non più con i milioni e milioni i milioni di persone, per le strade, come è successo in passato, ma con delle iniziative, chiaramente, che hanno usato il web, hanno usato la tecnologia per ricordare questa giornata. Soprattutto i ragazzi di Friday for Futures ci ricordano che, la rivoluzione, e la transizione ecologica sono, le cose che ci servono. Ecco perché, appunto, cerchiamo di ricordarci come, questa crisi della pandemia che stiamo vivendo ci aveva fatto notare, ci sta facendo notare i cambiamenti necessari. E insomma, abbiamo pensato nelle giornate di silenzio, nelle giornate in cui l'aria si è pulita e le acque sono diventate più chiare, gli animali si sono ripresi, in tanti posti del mondo i loro spazi, che questo fosse un messaggio molto chiaro. Ma cosa ne pensi te, Mattia, dei messaggi che stanno girando in questi giorni? Sì, no, tra l'altro tu, diciamo, io parlavo di socialismo più elettrificazione, tu invece giustamente ci riporti al presente, alle altre rivoluzioni che dobbiamo fare. Certo, Lenin aveva la sua idea di rivoluzione, che probabilmente non è più applicabile così come lo è stato nella Russia bolscevica del 17, sono altre le rivoluzioni che ci aspettano, e certo, come dici tu e come cerchiamo anche di dire questa sera, sono tante le cose che sono emerse che dovremmo fare dopo questa pandemia per cambiare un sistema sociale ed economico che sicuramente non ha aiutato a combatterla questa pandemia. Ed è un po' uno dei temi di questa serata. Io direi, Francesca, se sei d'accordo, di presentare il nostro primo ospite, in questo caso. Tornando così dai nostri voli pindarici sul globale, sull'ambiente, al locale. Sì, certo, perché oggi abbiamo pensato di dedicare questa nostra cura radiofonica, questo nostro cortile virtuale, un po' a quello che ci sta succedendo intorno. Sicuramente le tematiche forti, su cui tutti ci stiamo interrogando sono questa connessione, appunto, delle limitazioni molto forti che ancora stiamo vivendo, con il lavoro che deve iniziare, con magari appunto dei ritmi lavorativi e anche di rispetto dell'ambiente che vorremmo poter applicare. Per questo che, insomma, anche dalla mia postazione caldonazzese mi piace presentare il nostro primo ospite amico, che è Alex Faggioni, e che ci ha mandato un audio qualche giorno fa molto interessante, che secondo noi può essere un'esperienza molto interessante da ascoltare e da condividere e su cui riflettere insieme. Ciao, ciao Alex, ci sei? Ciao, ciao, eccomi qua, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, ciao Alex. Allora, Alex, come dicevo, oltre che essere un amico, è innanzitutto un falegname. Anzi, un artista del legno, mi verrebbe da dire, è un piccolo imprenditore che ha un bel. È vero, dai, diciamolo, sei bravissimo con il suo laboratorio a legno storto, che è proprio qua a Caldonazzo, e è anche un imprenditore perché ha un bellissimo B&B sul lago, e è stato anche un protagonista, insomma, di queste settimane, perché lo ricordiamo come uno dei delle voci degli invincibili che lui e la sua famiglia hanno doppiato a causa della quarantena che hanno dovuto sopportare nelle ultime settimane. Ora Alex, anzi Mattia, che dici? Ascoltiamo un pezzo dell'audio che ci ha mandato Alex. Ma allora, io vi proporrei un altro ascolto, Francesca, perché in realtà pensando di averlo live, non ho pensato invece di inserire il suo messaggio vocale che ci ha spedito, perché mi sono detto, ma è qui, allora facciamogli così, Allora intervistiamolo e diamo voce a lui. giochiamo Però con giochiamo con le nostre cartoline. invece ti proponevo, così anche per così provocare un po' il nostro Alex, di farti così, di far ascoltare a te e a lui questo piccolo audio molto divertente che sta girando sui social. Passiamo da un grande leader rivoluzionario a un altro grande leader, se siete d'accordo, va bene? Ascoltate. A livello nazionale un nuovo modulo, no? Per restringere ancora di più le maglie in termini di mobilità. Esatto, il nuovo modulo dice che chi è in quarantena devi autocertificare di non essere in quarantena. Da quando è successo sto qua? Ecco, Alex, l'hai riconosciuto? Ma guarda, faccio fatica, posso avanzare l'ipotesi, ma insomma ho capito qual è il taglio del prato, forse è quello che conta di più, insomma. È il nostro grande leader, il nostro grande Certo, leader presidente della massimo. provincia, leader Massimo, qui alle prese con, diciamo così, una specie di circolo vizioso burocratico. Qual è la reazione che ti suscita questo piccolo audio? Ma guarda, fastidio, mi suscita un grande fastidio perché io, come molti altri, fondamentalmente sono un piccolo imprenditore. Può essere una parolaccia questa, ma intanto è strano, no? Che una partita IVA, un imprenditore, che di solito tutti, come dire, inseriscono, catalogano in quello che è il mondo di destra, faccia parte di una trasmissione in cui viene ricordato che oggi è il compleanno di Lenin, no? Da questo suona. Sì, ma quello è un problema mio, Alex. Va bene, no, però forse abbiamo proprio bisogno di andare a ricercare quelle che sono le note stonate, no? Di questa sinfonia, perché ci siamo abituati agli schemi un po' troppo. Diciamo che ti dicevo che sento, provo fastidio quando sento la voce del nostro beneamato presidente della provincia, perché io ritengo che sia ora di dirsi come stanno le cose. E credo che molte delle persone che hanno votato questa classe dirigente se ne stanno rendendo conto. Io vengo dalla Valsugana. In Valsugana la Lega le politiche ha preso 23.000 voti e sono una caterva. E li ha presi, diciamo, seguendo lo slogan, le persone si sono fatte un po' abbindolare dallo slogan del attenti, attenti, che arriva il nero e vi porta via il portafoglio. Ora ci troviamo questa classe dirigente che, per quanto mi riguarda, è totalmente incapace. E secondo me qui il punto non è tanto politico, cioè la questione qui è a monte della politica. Qui abbiamo un problema di competenza, abbiamo un triumvirato in provincia, Fugatti, Lisesti, Segnana, che sono delle persone che stanno in posti chiave di una macchina che, allora, il PIL della provincia di Trento nel 2018 era quasi 20 miliardi, 19 miliardi e rotti. Nel 2019 più 1,5%, nel 2020 non lo sappiamo ancora. Ma queste persone si sono trovate a guidare una macchina che non sanno guidare, questo è il punto. Sì. E ancora prima delle diatribe tra quelli che sono, diciamo, le visioni politiche della Lega e le visioni politiche del centro-sinistra, qui c'è proprio un tema che ha a che fare con la competenza delle persone. Allora, tu poco fa dicevi che ricordavi giustamente che oggi è il compleanno di Lenin. C'è un'altra celebrazione che è un po' passata in sordina. Il 12 aprile era l'anniversario del primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, figlio, guarda caso, di un falegname. Allora, a me questa cosa riempie ogni volta Adesso il però mi cuore. emoziono se dici Yuri Emozionante, Gagarin, ma adesso faccio Alex. l'accostamento che ti fa passare l'emozione. Allora, senti qua. Allora, Gagarin, appunto, era figlio del falegname. E è stato il primo uomo ad andare in orbita. Allora, c'è da essere orgogliosi del fatto che un figlio del popolo sia stato il primo uomo a oltrepassare l'atmosfera. Ma attenzione, noi abbiamo una classe dirigente, specialmente in Trentino, totalmente incompetente, fatta di persone che, come dire, rivendicano questo status di figli del popolo. Ma siamo naturalmente su uno spessore totalmente diverso, perché Gagarin per andare nello spazio si è fatto il matto tanto, ha studiato, è nato in un sistema che gli ha dato la possibilità di accedere ai più alti livelli di istruzione. Okay? Qui abbiamo, anche noi abbiamo la possibilità di accedere ai più alti livelli di istruzione, ma qui abbiamo una classe dirigente che è fatta di figli del popolo, che si vantano di essere ignoranti, si vantano di non leggere libri e guidano attualmente nel nostro piccolo Trentino una macchina da 20 miliardi l'anno. Alex, non voglio interrompere questo pamphlet che condivido totalmente. Stiamo diventando molto sovietici questa sera, Francesca. Posso fare una riflessione riguardo a alla cosa che ha detto Alex, che secondo me è super interessante. Quando si parla, appunto, tu parlavi dei figli del popolo, cos'è che avevano, soprattutto al di là, appunto, della possibilità dell'accesso all'istruzione? Una condivisione di valori. E questo ha molto a che fare con la gestione poi del potere a servizio di una società. Il problema della nostra classe dirigente, il problema delle persone che adesso in questo momento sono in Trentino, si vantano di non leggere libri come dicevi te e si vantano di chiudere le altalene ai bambini, come è stato qualche mese fa, è invece che proprio vanno ben oltre la condivisione, non hanno una condivisione, non vogliono costruire una condivisione di valori. Dall'altra parte, però, mi piace sottolineare come per fortuna in tante situazioni, in tanti territori e anche in questo momento qua di crisi, l'attività dal basso della gente si è fatta vedere, sono venute fuori forme di mutualismo, di economie. E di solidarietà che sono molto importanti. Questo comunque deve dare speranza. Abbiamo una classe politica scollata dalla società, ma una società, almeno parte della società, che per fortuna si sta auto-organizzando. Alex, Sì, no, poi sì, prego, no, dimmi. vai, vai, vai. No, ecco, allora, naturalmente poi questa incompetenza salta fuori nel momento in cui ti trovi in plancia di comando a dover gestire una situazione che, attenzione, io mi rendo perfettamente conto del fatto che sia una situazione assolutamente straordinaria e di una grandissima complessità, non è che voglio fare delle banalizzazioni, però dico che se sul Titanic, a pilotare il Titanic, ci metti l'ultimo sguattero che stava lì a pulire i bagni, senza avere le competenze per guidarlo, il Titanic, è ovvio che poi il Titanic va a sbattere. Poi, vabbè, forse il Titanic non era l'esempio più azzeccato, no? Però credo che si sia capito che cosa voglio dire. Qui una macchina come quella trentina da 20 miliardi con alla testa delle persone che non hanno la competenza per guidarla. Allora, faccio alcuni esempi. Allora, lato B&B, allora, Francesca diceva poco fa, io gestisco questo piccolo B&B sul lago di Caldonazzo. È un B&B per il quale ho fatto un investimento importante, erano soldi che non avevo, quindi li ho chiesti in banca e diciamo che la macchina economica girava e con le entrate pagavo il mutuo. Ora è tutto fermo a livello nazionale, mi rendo conto, ma ricordiamoci che nel momento in cui arrivavano le notizie dalla Cina di questa pandemia, qui c'era qualcuno che se la rideva, e ricordiamoci che quando c'erano le indicazioni che dicevano chiudiamo gli assembramenti, chiudiamo gli impianti sciistici, c'era chi, e parlo naturalmente del nostro leader, certo, minimizzava il problema, e anzi l'assessore, io stesso ho ricevuto una mail dall'assessore Failoni, competente al turismo, in cui si diceva attenzione, le piste da neve in Trentino sono ottimamente innevate, non abbiate problemi, non abbiate paura, invitate i vostri ospiti a venire a sciare perché qui in Trentino si sta bene. E eravamo già, come dire, nel mezzo di una situazione allarmante. Questa cosa poi ha, diciamo, prodotto dei risultati che sono stati catastrofici. Sì. Vi parlo dell'aspetto legato invece al laboratorio della falegnameria. Beh, allora io sono stato messo in quarantena per 3 settimane perché io e i miei familiari ci siamo ammalati con febbre alta quando c'era il clou dell'epidemia. La dottoressa ha fatto la segnalazione all'ASL, è partita una quarantena fiduciaria, per cui sono stati obbligati a stare a casa, giustamente, vi dico, però nessuno di noi ha fatto nessun tipo di esame. Solo a mia figlia sono stati fatti 2 tamponi dopo 2 settimane dalla scomparsa di tutti i sintomi. Se i tamponi fossero risultati negativi entrambi, il periodo di quarantena finiva. Così è stato. Noi ora siamo liberi dalla quarantena, nessuno di noi ha la certezza di aver fatto o di non aver fatto la malattia. Al danno si aggiunge la beffa, nessuno di noi ha fatto il tampone. Bene, noi siamo assicurati, io e mia moglie, con l'ITAS. L'ITAS ti ha detto, se volete un risarcimento dovete essere positivi al tampone. Adesso, cioè, dire, ci rendiamo conto, no, della situazione nella quale ci mettiamo. Il tampone non è che lo decido io di fare, è l'azienda sanitaria che me lo impone o me lo fa fare per fare dei controlli, no? Sì, viene in mente proprio la frase, viene proprio in mente la frase che abbiamo fatto sentire di Fugatti, no? C'è una burocrazia assurda con nessuna attenzione, poi nessun buon senso nei confronti di coloro che hanno delle necessità. Questo è un problema. No, certo. Ma quando è finita la mia quarantena e è stato fatto il decreto nazionale, mi sembra fosse Pasquetta, che permetteva ad alcune attività di riprendere la produzione, nell'allegato del decreto nazionale la produzione di mobili era esclusa, quindi io non potevo, secondo quel decreto, mettere piede in laboratorio, salvo per fare delle pulizie o per fare della vigilanza, comunicandolo al commissario del governo, no, visto che si parlava di burocrazia. Il giorno successivo arriva un'interpretazione provinciale che diceva no, non scrivete al commissario del governo, scrivete direttamente al presidente della provincia. Quindi anche lì un rincorrersi, no, di moduli che cambiano ogni giorno, non si capisce bene se si può riaprire, se non si può riaprire. Io l'obiezione che ho avanzato da subito anche con la mia associazione di categoria è la seguente: io ho detto signori, lavoro in un laboratorio da solo, vado a lavorare da casa mia, faccio 2 chilometri in macchina, vado nel mio laboratorio, non vedo nessuno, tengo le porte chiuse, ditemi perché non posso lavorare. Sì, diciamo che c'è stata anche molta improvvisazione. Tra l'altro, Alex, non so se sei d'accordo anche tu, Francesca, tu ci hai parlato così, no? Anche della quarantena che avete vissuto come famiglia. E così, per dare anche un po', così, un tono un po' più allegro, leggero a questa cosa di cui stiamo parlando, ci piacerebbe fare sentire. Diciamo così, la creatività che è nata da questa quarantena in famiglia. Allora, se sei d'accordo e se è d'accordo Francesca, io farei sentire un audio e poi ci racconti di che Certo. cosa si tratta, anche se credo che in Ciao. Trentino ormai sappiano più o meno tutti di che cosa si tratta. Vado? Vai. Per l'aereo nello stis farò un fronte di amichevole con qualche d'una. Invece meno male che vo' cargati su sull'auto passando per Perzen, perché putei non se poi mica punare in giro come che se vo', le robe le ha cambiate in provincia. Cosa vuol dire che le ha cambiate le robe? E fugati, Siamo, lasciò si il sente consiglio il provinciale, la clicchettio. manda qui dell'opposizione a lavorare col progettone. Le leggi ormai le fa il Salvini e che le manda fugati su WhatsApp. Dai, sta fermo un attimo, che non capisco E allora niente. te impara a fare le bolle del Sì, era un po' Saul? che mi Diamo il tempo a recitavo. Mattia, so che Altro deve che sempre monade. E su aereo, vecchio. parecchia Dì la tecnica. mamma che ha sciupato tutto. Sì, c'erano i missili con sulle stelle alpine e le genzi anelle. Dopo è scoppiato tutto, è stato Lo bellissimo. sento. Sì, sullo chiarusino, ben. Diciamo dopo, voilà. Ah sì, salve, sono la vostra vicina qua delle casette. Volevo dire che dall'appartamento si sente un grande odore di bruciato. Sì, ho nuotato fino a San Cristoforo e dopo... Oh! Ecco qua, avete sentito? Ne Abbiamo abbiamo sentito. sentito, tra l'altro, che meraviglia, ci hai fatto veramente divertire, Alex. E si è creato un bacino di tuoi affezionati, anzi di vostri, perché comunque è stata una produzione familiare. Non solo siete stati ripresi, insomma, dai nostri giornali locali, da multimedia, ma veramente c'era un gruppo di persone che veramente vi seguivano e addirittura mi sembra che avete fatto quattro puntate, Spieghiamo di che se cosa si ricordo. tratta. Spieghiamo di che Sì, cosa ma si tratta. allora, si tratta di una serie di doppiaggi del cartone animati degli Incredibili, prodotto dalla Pixar. Degli spezzoni che noi abbiamo doppiato in dialetto trentino, creando delle piccole storie, diciamo. La cosa è nata così, per ridere, dato che ho dovuto attrezzarmi per produrre dei piccoli cortometraggi per lavoro, sia per il BMI sia per la falegnameria. A un certo punto, prendendo mano, diciamo, con lo strumento, ho detto, dai, che facciamo questa cosa divertente. È nata così dopo cena. E infatti, il primo che abbiamo prodotto, che era proprio la scena di una cena a 5, in cui c'erano alcuni DTC, diciamo. E è nata un po' così. E anche la qualità del montaggio, del doppiaggio, è così, tutto sommato basilare, non che il resto fosse di qualità professionale, però gli altri sono un po' più curati, ecco. E quindi dopo cena ci siamo messi lì, abbiamo fatto questa cosa, abbiamo condiviso e è diventata virale nel giro di poche ore. E quindi lì abbiamo preso coraggio, siamo andati avanti con la saga, strutturandola sempre di più, dandogli sempre di più anche un carattere di satira politica, tanto che addirittura un episodio è finito sulla pagina ufficiale di Fugazzi. Ma Mia infatti madre mi. su questo volevo chiederti, Alex, perché io ho letto dei commenti feroci nei vostri confronti quando è successa questa cosa. Sì, diciamo che non tanto dalla pagina di Fugazzi, a onor del vero, nel senso che Fugazzi ha fatto un post in cui diceva: guardate qua questa famiglia, che cosa fa, che divertente. Lui ironizza anche sul fatto che il cattivo che aveva i capelli sparati in aria di un certo colore era lui e che lui i capelli così non se li sarebbe fatti. E sotto una fila di suoi sostenitori hanno commentato dicendo: sì, l'abbiamo visto, bellissimo, bellissimo. quindi c'è stata anche questa che era... Ma a un certo punto, siccome mi veniva rivolto una sorta di invito a cena da parte di Fugatti, io in un commento sotto dico, ma allora noi siamo in quarantena e quindi non possiamo uscire per l'invito a cena, quindi bisognerà rimandare eventualmente ad una prossima data, però dico Fugatti... Io voglio venire come giornalista embedded a quella cena. Va bene. Quando però vi mettete, questa... vi mettete la tutina quando succede questa cosa. Sì, senti, vabbè. Alex, allora con te abbiamo iniziato un po' una riflessione. Siamo andati un po' nella carne viva su quelle che sono le problematiche che tutti stiamo vivendo in prima persona, a parte insomma le riflessioni con cui siamo partiti. E soprattutto insomma ci siamo concentrati un po' in questa parte del Trentino orientale, quindi le tue problematiche come piccolo imprenditore, il laboratorio di falegnameria, appunto Legno Storto, che prima mi accennavi che fa un po' fatica ad aprire, le problematiche che avete avuto anche nella malattia, perché comunque è stata anche un'esperienza abbastanza dura che per fortuna si è risolta per il meglio nonostante ITAS vi abbia risposto come vi ha risposto. E se appunto siete d'accordo, ci piacerebbe continuare ad ascoltare voci dal territorio. Mattia, cosa dici? Proviamo a raggiungere la nostra seconda ospite che se riusciamo a intercettare telefonicamente veramente ci regala un pezzo di Trentino di cui siamo molto orgogliosi, perché è Aghito Ideo, che ormai insomma è veramente famosissima perché è stata ripresa e intervistata da moltissime persone anche a livello nazionale e internazionale, pastora etiope, imprenditrice anche lei con la Capra Felice, e soprattutto una persona che sta dando anima e core al nostro territorio con delle visioni anche molto interessanti. Allora, volentieri. Dobbiamo sì. Andarla a raggiungere? Allora, sì, visto che dobbiamo fare la telefonata, io vi propongo di mettere un piccolo stacco musicale, come si fa nelle radio vere, e io intanto provo a fare una telefonata, ok? Allora ci risentiamo tra pochi secondi. A dopo. Risponderà, non risponderà? Risponde la segreteria telefonica. Purtroppo non ha risposto. Senti Mattia, allora io farei così, siccome Aghito comunque sappiamo che veramente ha un lavoro impegnativo, noi le abbiamo dette le 7:30, sono proprio le 7:33, quindi probabilmente ha bisogno di qualche minuto in più. Io invece con moltissimo piacere farei intervenire la nostra seconda, anzi terza ospite, sì, che intanto che te la chiami via Skype la introduco. Ma sì, volentieri, allora facciamo così, io provo a sentirla e tu ci racconti di chi si tratta. Chi è? Pronto, ci sei Francesca? Stiamo invitando in questa puntata di Radio Cura e è Monica Di Sisto, per quanto mi riguarda una carissima, carissima amica, una grande donna, ma soprattutto una grande economista, che ci ha accompagnato in tanti incontri qua in Trentino, soprattutto è stata una delle madrine dell'Economia Festival, che è il festival che spero voi conosciate, insomma il festival di economia alternativa, che racconta l'altra faccia dell'economia, che negli ultimi 6 anni è stata è stata protagonista del contraltare del Festival dell'Economia. Ecco, Monica c'è, Francesca. Ciao, eccomi. Ciao. Ti stavo introducendo, Monica, con parole sempre troppo poco forti, troppo, perché insomma, sempre troppo, come al solito. Sempre troppo. Allora, Monica, innanzitutto è vicepresidente di Fairwatch Italia, è la referente delle campagne Stop TTIP e Stop CETA, di cui magari ti chiederemo di parlare fra poco. E raccontavo appunto, Monica, come tu ci avessi accompagnato in questi ultimi anni in tanti incontri, soprattutto quelli dell'Oltre Economia Festival, ma abbiamo voluto averti con noi non solo perché ti fa molto piacere, non solo perché oggi è una giornata che Radio Cura vuole dedicare un po' alle riflessioni fra lavoro, economia, fine del lockdown e anche un respiro verso l'ambiente, insomma, che speravamo fosse colto in questa crisi sanitaria, nonché appunto ambientale, e anche perché domani, 23 aprile, a voi come Stop CETA avete un incontro abbastanza importante. Insomma, tante robe, ti lascio la parola, Monica, per raccontarci questi vari aspetti. Beh, innanzitutto grazie dell'invito, soprattutto perché a me manca Trento, perché io di solito in questo momento cominciavo a prepararmi il viaggio per venire, per aprire l'Oltre Economia Festival, e da madrina felice e anche molto orgogliosa, perché poi appunto voi siete nati a contrattare del Festival dell'Economia di Tito Boeri, in realtà poi siete diventati il festival, perché spesso e volentieri da noi c'era più gente che nei conti del Festival dell'Economia. Ma soprattutto, visto che ormai la mia parola d'ordine in questi giorni è in virus veritas, tutto quello che noi abbiamo denunciato insieme in tutti questi anni di Oltre Economia Festival, in realtà si è dimostrato forse anche troppo gentile e conservativo rispetto alla potenza e all'impatto che sull'economia e sulla nostra società ha avuto una crisi del tutto prevedibile come quella legata al Covid. Perché se la pandemia, diciamo, in realtà era stata annunciata per esempio dall'OMS, che aveva detto dopo la grande pandemia della SARS, che non aveva, diciamo, granché colpito l'Italia, però molti paesi in via di sviluppo sì, e quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva detto, beh, insomma, in realtà ci sono vari problemi che potrebbero susseguirsi, che potrebbero, diciamo, complementare una crisi pandemica che ha tutte le caratteristiche per potersi verificare nei prossimi anni, e soprattutto aveva detto che i sistemi pubblici non sarebbero stati in grado di affrontare la pandemia, e che la pandemia si sarebbe abbattuta a corpo morto sui sistemi economici dei paesi anche più ricchi. Chiaramente queste sono le classiche previsioni, come quella dei cambiamenti climatici, che vengono tacciate anche per inerzia mentale, proprio per volontà di rimozione quasi psichiatrica che le nostre classi dirigenti hanno nella categoria del disfattismo, no? del pessimismo cosmico, eccetera. In realtà poi puntualmente si sono verificate tutte. All'Oltre Economia Festival l'anno scorso avevamo parlato della possibilità che un fattore esogeno, quindi esterno, diciamo, a quelli soliti, avrebbe potuto colpire il mercato globale, e che il mercato globale, per così come era fatto, non avrebbe resistito perché non stava funzionando, e ci siamo. Ci siamo purtroppo, e ci siamo nel modo più sventurato e più sciagurato, ossia con l'ennesima crisi imprevista, dalla quale però, e questa è la notizia più sorprendente, potremmo, cioè si preparano, ci stanno preparando a farci uscire e quindi a farci rimanere, come è successo dopo il 2009, nei soliti modi, ossia, come dice anche Greta, insomma dicono tutti quanti gli esperti di questi temi, business as usual, cioè coi soliti vecchi rimedi finanziari, quindi prestiti, debito, prestiti alle imprese, prestiti non condizionati, prestiti alle imprese grandi, perché delle piccole poi ce ne freghiamo fino a un certo punto, indebitamento privato, indebitamento delle banche, e per le persone che stanno a casa, ma cioè, 600 euro, forse altri 800 o 500, dipende da quello che si deciderà, ma che comunque pregiudicheranno da qui in avanti un paese che deve affrontare un crollo del PIL del 15%, una disoccupazione che era la più alta d'Europa, una disoccupazione giovanile che era la più alta d'Europa prima, e con una crisi climatica dalla quale non è che siamo fuori, perché è vero che le foto dal satellite ci dicono, no, che l'inquinamento sulle città si è ridotto, però i cambiamenti strutturali, gli impatti strutturali che il cambiamento climatico hanno provocato, per esempio con lo scioglimento dei ghiacci, con la desertificazione, con il moltiplicarsi di eventi improvvisi, non è che smetterà per miracolo, né tantomeno per alleviarci, diciamo, la vita nel Covid. Quindi noi ci troviamo ad affrontare impreparati, colpevolmente impreparati, questa fase, e le vie di uscita che si propongono non sono quelle a rialzo di promozione sociale, di cura del pianeta, di ritessitura dei servizi essenziali dei territori, delle città, di ricucitura della cesura campagna città, ma banche, finanziamenti alle imprese senza nessun tipo di condizionalità né sociali né ambientali, finanza e fossili. Ecco, la cosa, se volete, più paradossale, poi magari mi taccio così e vi do la notizia, diciamo, dell'incontro, e poi magari ne chiacchieriamo però un po' insieme, è che intorno, diciamo, al capezzale del nostro paese malato si convocano gli esperti, a malapena si parla con i sindaci, si redarguiscono i presidenti delle regioni che fanno un po' di testa loro, alcuni diciamo nell'occhio del ciclone, altri fanno le stesse identiche cose ma non se ne parla perché fanno parte della maggioranza di governo. Ma il vero problema è che non si parla con la società civile, con le comunità resistenti, con le associazioni che in questo momento stanno provvedendo con i loro fondi, anche per esempio a fare distribuzioni di pacchi, di beni di prima necessità alle famiglie che si sono trovate senza niente dal giorno alla notte. E quindi al massimo gli si dice: ah, che belli, bravi gli angeli, no, delle nostre città, prima eravamo gli angeli del fango, poi eravamo gli angeli dell'Africa, poi siamo diventati più angeli del niente, però non, tutto quello che noi abbiamo sempre detto si puntualmente verifica, e puntualmente si decidono altre cose rispetto a quelle che proponiamo. Allora, Monica, scusa, ti lascio finire. No, finisco, sì, dico solo questa cosa, cioè che il gruppo parlamentare della sinistra europea, il GUE, ha deciso di fare una serie invece di incontri anche online, purtroppo, com'è, con esperti non soltanto delle Nazioni Unite ma anche appunto della società civile. Domani facciamo un incontro al quale, devo dire, un punto a loro, grazie, veramente una bella cosa, insomma, anche personalmente mi invitano per parlare di commercio insieme a uno degli esperti di punta dell'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di commercio e sviluppo, che si chiama Gerone Incapaldo, che abbiamo avuto anche ospite a Roma, per capire proprio quali sono invece le indicazioni che noi diamo. E io sarò molto puntuale, ma non di testa mia, perché in queste settimane centinaia di associazioni hanno riflettuto su che cosa sarebbe meglio fare, soprattutto dal punto di vista commerciale, e io farò proprio il portatore di carte, perché penso che nelle nostre realtà c'è la saggezza, la forza, le braccia, le gambe, le capocce per uscire da questa crisi meglio di come ne siamo entrati. Ecco, saggezza, gambe, forza per uscire da questa crisi meglio di come ci siamo entrati. Questa è la tua speranza, Monica Di Sisto, che io mi sento di condividere e lo condividiamo anche con la nostra amica Agitu. Ciao Agitu, sei al telefono con noi? Dovrebbe esserci Agitu, ha risposto al telefono. Ci sei, mi senti? Agitu, ci sei? No, per il momento non c'è. Francesca, vai tu. Allora, intanto che proviamo a recuperare Agitu, che insomma per Monica magari lei se la ricorda, perché comunque negli spazi dell'Oltreeconomia Festival è passata anche lei, appunto questa nostra amica, pastore etiope in resistenza dalla Valle dei Mocheni, che appunto ci aiutava a fare la riflessione dei territori resistenti di cui ci stai parlando te. Ma la domanda che volevo farti io, infatti, era sulla sensazione che te hai riguardo a le ricette economiche che da anni ci stanno imponendo, il clima che è terribile, di enormi diseguaglianze che hanno creato, però in qualche maniera negli ultimi anni un certo tipo di società civile ha sempre pensato che riguardasse qualcun altro, oppure che fossero formule magiche, che di fatto non andavano a incidere così tanto nella propria esistenza. Comunque, questa volta qua ci troviamo, sotto questo grande livellatore, strano, che è stato appunto, il virus, e che è tuttora il virus, che in una maniera o nell'altra fa sentire ognuno di noi estremamente partecipe delle scelte che ci aspettano. Prima ascoltavamo un nostro amico Alex Fagioni, qua di Caldonazzo, di Calceranica, che ci raccontava le sue difficoltà come piccolo imprenditore, come falegname, come uno che cerca di ripartire dopo questo blocco così imposto, e anche parlando con le persone senti una grande aspettativa. Quindi potrebbe essere la volta che queste grandi scelte economiche siano più partecipate, o ci sia più consapevolezza, più coscienza riguardo a quello che vogliamo veramente. Innanzitutto, come sai, io sono una grande ottimista, quindi dico, ci dobbiamo provare anche questa volta. Ci dobbiamo provare assediando i palazzi, battendo a tutte le porte e parlando, ricordando tutto quello che poi in questi anni non soltanto abbiamo detto, ma abbiamo fatto. Cioè, quando noi abbiamo detto che le filiere internazionali non erano soltanto globalizzate, non erano soltanto ingiuste, ma che per il cibo non funzionavano ed erano particolarmente fragili, e se si perdeva la capacità di produrre per il consumo interno, il mercato interno, tutti saremmo non soltanto stati più poveri, più sfruttati, ma soprattutto più fragili dal punto di vista economico e del modello produttivo. Cioè, ieri sentivo uno dei nostri nemici che diceva che non avevamo capito niente sul commercio internazionale, cioè Confagricoltura, che parlava di autosufficienza alimentare per questo paese, che se l'avessimo detto noi ci avrebbero dato dei fascisti sovranisti in due mosse. Quindi io sono terrorizzata dal fatto che per l'ennesima volta tutto ciò che era stato bene o male studiato, e quindi anche un po' analizzato per bene a partire dai numeri e da quello che succedeva sul serio nei mercati, si sia verificato, ma che per l'ennesima volta anche ad un'esigenza di questo tipo si potrebbe dare una soluzione di mercato, ossia intensivo, ossia lavoro sfruttato, lavoro precario. Avete sentito, no, le boutade di questi giorni? Si prende il reddito di cittadinanza tutti in campagna. No, bene, hanno fatto le organizzazioni, alcune organizzazioni di settore, che hanno detto no, apriamo una piattaforma per inserire le richieste di lavoro, e che le richieste di lavoro siano trasparenti, e lì chiaramente c'è tutto il lavoro che deve fare, che sta facendo il sindacato, per garantire che chi arriva sul sui nostri campi abbia contratto, tracciabilità e se è migrante diritti a 360 gradi. Ma io però mi permetto di dire, non soltanto la registrazione ha raggiunto la massima lunghezza disponibile. Il messaggio è stato inviato. Diciamo, arrivederci e grazie per aver chiamato. Non so cosa sia successa. Questa è una voce che viene dall'etere. Esatto, bellissimo. Scusa, però, Monica. Attenzione, attenzione. La CIA. Ho il terrore, bellissimo. Ho il terrore che ne usciremo. Nella, diciamo che soprattutto il governo italiano nelle sue responsabilità attuali e l'Europa ne vogliano uscire invece con le solite soluzioni mercatiste. Lì però siamo noi, soprattutto la forza nostra sui territori, di chi come in questo momento sta garantendo invece per esempio l'approvvigionamento dei mercati rionali, i mercati a domicilio e i quartieri e le piccole e medie produzioni, e devo dire alzare la voce, la mano, la voce e dire no, ci siamo noi, noi contiamo come tutti gli altri, siamo di più di Confindustria Classica, lavoriamo molto bene e quindi dobbiamo poter dire la nostra non soltanto sul cosa produrre e che fare, ma anche come farlo e quali regole ci servono. Sì, ma infatti Monica, se c'è un dato che penso sia chiaro a tutti, anche se in qualche maniera siamo tutti un po' rinchiusi nelle nostre bolle, nelle nostre case e nei nostri spazi, è che o per scelta o per necessità ci sia una società, quella italiana, che si deve, si sta auto-organizzando per darsi delle risposte, perché da una parte ci sono situazioni, realtà come quelle romane, che insomma io e te magari conosciamo un pochino meglio, dove le persone che non arrivano a fine del mese sono state aiutate appunto da la mano solidale delle organizzazioni, insomma delle persone che si sono aiutate fra di loro, e dall'altra parte anche in realtà come quella trentina, la mancanza di risposte chiare, la mancanza di direzione e di messaggi comprensibili stiano così alimentando delle scelte alla fine di personali o di gruppo, perché d'altronde Agitu, che mi sembra di capire che purtroppo non riesce a essere con noi oggi, però è una che raccontava che finalmente apriranno in Trentino i mercati, che sono stati chiusi perché ci volevano tutti nei supermercati, che insomma non so per quale idea erano più sani che i mercati all'aperto, quindi riapriranno i mercati con le piccole produzioni, ma sembra che non stia saltando la distanza massima entro cui le persone si possono allontanare dalla propria casa. Quindi Agitu diceva, io non so che senso abbia per me scendere dalla Val dei Mocheni, arrivare a Trento con i miei formaggi, alzarmi all'alba col mio banchetto e poi le persone non potranno neanche raggiungermi perché c'è la limitazione dei 200 metri o poco più. Quindi viviamo questo scollamento fortissimo di regole, di limitazioni, qualcuno dice anche verso una dittatorialità che sta diventando preoccupante, e dall'altra parte le soluzioni messe in campo dai piccoli, dai medi, che come si dice da tanto tempo, possono essere uno dei panorami possibili per l'economia che vogliamo. Francesca, io vi proporrei questo. Noi stiamo andando verso la chiusura della trasmissione. A questo punto io farei un giro così velocemente di conclusione, di riflessioni con Alex e con Monica, e poi noi oggi abbiamo registrato, anzi io ho oggi registrato un'intervista che ci riporta nuovamente un po' sul territorio, perché ho fatto un'intervista a un pizzaiolo qui del mio quartiere a Trento, abbastanza in centro, in zona San Pio X, che ci racconta un po' tutti i suoi problemi appunto nel tenere aperto, nel cercare di arrivare a fine mese. Mi sembra interessante farvelo ascoltare, però ecco, prima magari a mo' di saluto facciamo un giro di tavola, magari per Così per dirci anche che cosa speriamo, no? Abbiamo detto quali sono stati i problemi burocratici, la mancanza di aiuti per quanto riguarda gli artigiani, per quanto riguarda i piccoli, no? Come diceva Monica. Vediamo invece, cerchiamo di guardare in positivo, alla fine almeno parziale, di quello che ci sta succedendo in queste settimane, boh, per cercare di dare una prospettiva anche a chi ci ascolta. Inizierei magari da Alex. Sì, beh, allora diciamo che se vuoi un qualcosa di positivo, non so se sono la persona adatta, nel senso che Qualcosa di io rispetto a moderatamente questa. ottimista. Dai, va bene, ci provo. No, io con il mio piccolo laboratorio artigianale metto le mani in pasta in queste problematiche da ormai 14 anni. E ho sempre fatto delle scelte anche etiche, però adesso in questo momento è veramente dura. Nel senso che è vero, sono stati messi sul tavolo 600 euro per aiutare le aziende che erano in difficoltà, che sono davvero delle briciole, perché la grande spada di Damocle su tutte queste aziende sono i pagamenti che sono stati solamente spostati in avanti di qualche settimana, in tutta una serie di tasse che sono lì ad aspettarsi. Ma naturalmente un mese in meno di lavoro, se già si parla di situazioni che in qualche modo galleggiavano, quel mese in meno di lavoro ha un impatto che è devastante. E finora rispetto a questo non ci sono delle proposte. E io quello che posso auspicare è che davvero si vada verso una valorizzazione di quelle che sono le produzioni locali, delle filiere locali. Ma quello che deve veramente cambiare sono alcuni paradigmi nella testa delle persone, perché è ovvio che se io vado a comprare il formaggio al discount e lo pago 1 euro al chilo, quando poi devo andare a comprare il formaggio al mercato di Agitu e lo pago 20 euro al chilo, come dire, rimango stupefatto, no? Ma perché io sono stato abituato che esistono dei formaggi in commercio da 1 euro al chilo. Quando le persone vanno a comprare la libreria Billy all'IKEA e la pagano 200 euro e poi vengono da me e mi chiedono il preventivo per fare una libreria e gliene chiedo 1000, la gente mi dice: ma se, naturalmente solo se fa una valutazione in base al prezzo, mi chiede ragioni di questo. E tu voglio spiegare che dietro a IKEA c'è tutto un sistema, che IKEA è una multinazionale che sfrutta la manodopera intellettuale dell'India, compra le materie prime in Sud America per farti arrivare la libreria Billy sugli scaffali di tutti i discount IKEA del mondo, capito? Quindi. Eh sì, la libreria Billy è veramente nasconde, no? E poi infatti parli di L'hai anche che... tu la libreria Billy, di la No, verità. no, non l'ho L'hai più, tutta. non l'ho più, giuro, giuro. E comunque sì, le ho avute effettivamente. No, la cosa interessante di che è che poi in realtà il lavoro te lo fa fare a te che compri il mobile, no? C'è anche questo piccolo particolare, no? Che si nasconde dietro al prezzo. Monica! Ma Oh, Francesca! io, diciamo, io se volete, cioè, innanzitutto sono sempre un inguaribile ottimista, quindi. In realtà come dire, il Covid ci ha dimostrato che proprio per la libreria Billy non è così conveniente, perché l'approvvigionamento di che è chiuso, perché il lockdown si è portato via le grandi superfici per prime, e perché è vero che per i piccoli sarà difficile riaprire, ma per i grandi, per molti, molti grandi diventerà insostenibile comprimere i costi nel momento in cui le superfici non potranno più contenere quel numero spropositato di persone che contenevano prima. Quindi è vero che è stata fatta la scelta ridicola di concentrare tutta la domanda sul supermercato, ma nella riapertura e nella gestione futura della sicurezza sanitaria, che rimarrà come eredità da questo periodo e non cambierà per i prossimi anni, sicuramente non cambierà per i prossimi mesi. La nostra vita diventerà una vita più rada e Eh questa, sì. diciamo, diradazione della intensità sulle superfici commerciali, io non so quanto renderà più sostenibile la libreria Billy e quanto più a meno che non vogliono adottare il lavoro schiavo o spegnere tutte le luci, renderà veramente sostenibile al metro quadro quel modello lì. Quindi invece io con Francesca, proprio perché sono abituata, diciamo, a guardare in positivo, dico che questo è il momento in cui inserire in questa crepa del sistema che sarebbe crepato lo stesso, Covid o non Covid, perché c'è la bolla del debito finanziario, perché c'è l'ascia dell'incudine del cambiamento climatico. Ci porterà a fare delle riflessioni e a far sì che forse il formaggio di Aghito non solo sarà a quel prezzo, diciamo, ragionevole, ma soprattutto sarà l'unico che arriva, perché la nave che prima arrivava da chissà dove a portare il latte da chissà quando non arriverà più con la stessa tempistica, e questo succederà per tanto tempo. Quindi il mio invito a me e a tutti noi è: riempiamo di pensieri costruttivi e di interventi specifici e puntuali la nostra, diciamo, la nostra quotidianità di queste settimane, perché sarà importante accompagnare questo rilascio, no? La fine della nostra detenzione con idee, pensieri e pratiche. Per esempio sul tema dei mercati, e facciamo soprattutto rete tra di noi sulle buone pratiche, perché per esempio sul tema dei mercati noi abbiamo convinto il comune che in realtà i mercati erano molto molto molto meno rischiosi dei supermercati in questa fase, A e Roma, quindi dici, 10 giorni Monica? fa, esatto, noi a Roma, e quindi 10 giorni fa la nostra sindaca si è convinta a riaprirli, e le associazioni, le organizzazioni del CAR, quindi del grande mercato regionale, hanno pagato ai mercati le transenne e i divisori per permettere la frequenza di queste aree, dando così il respiro di nuovo ai produttori del territorio. Quindi siamoci, tanto siamo capaci, lo sappiamo, noi siamo quelli dell'economia di resistenza, facciamo rete con quanti più Alessandro conosciamo, perché la loro, come dire, virtù personale diventi un pezzo del sistema nuovo che dovremmo accompagnare. E io ti seguo volentierissimo, insomma, su quest'onda ottimista, perché, insomma, fa parte anche delle mie vibrazioni. E tra l'altro mi viene da dire che se siete riusciti a convincere Virginia Raggi, insomma, Capito? Stiamo a fare tutto, no? Doppio, triplo, quadruplo. Allora io saluterei Alex e Monica, li ringrazio moltissimo di aver arricchito questa puntata di queste riflessioni appunto fra il locale e il nazionale e internazionale. Ricordo l'appuntamento, il webinar domani dalle 15 alle 16:30, che Monica condurrà insomma ad altri ospiti, dove si rifletterà anche della campagna Stop Zeta e delle alcune tematiche che abbiamo sfiorato oggi insieme a lei. E faccio un annuncio, insomma, che è proprio di oggi, che ha molto a che vedere, insomma, con la discussione che abbiamo avuto in particolare appunto con Monica Di Sisto, che riguarda proprio l'Oltreeconomia Festival. Oggi l'Oltreeconomia ha inviato il comunicato stampa nel quale annuncia ufficialmente che l'edizione del 2020 purtroppo salterà. È stata, come leggerete nel comunicato stampa, una riflessione e una decisione collettiva sofferta ma necessaria, perché non possiamo rinunciare, così si legge anche nel comunicato stampa, alla corporeità e alla partecipazione collettiva di questo festival, che comunque non ci lascerà da soli, perché ci accompagnerà con delle altre produzioni, con delle interviste, con degli articoli che manterranno vividi i nostri cervelli e le nostre critiche. E allora, Mattia, noi ci stavi, insomma, incuriosendo con questa intervista che tu hai fatto al tuo pizzaiolo di quartiere. Quindi direi di andare verso la chiusura di questa puntata con questa intervista che tu hai fatto, ricordando che di Oltre Economia Festival e di Economie Trasformative parleremo la prossima settimana con ospiti molto interessanti e quindi vai di pizzaiolo. Sì, tra l'altro ricordo ancora prima di lasciarci, Francesca, che domani sera noi torneremo in diretta con Cura Radio e parleremo di bambini e di scuola, dei parchi che abbiamo visto chiusi in queste settimane, no? Con il nastro colorato perché non sia mai che qualche bambino andasse su un'altalena, ma anche di didattica online, un tema che sta facendo molto discutere. Avremo con noi numerosi ospiti domani sera e quindi continueremo, no, questo nostro viaggio nella quarantena con la prospettiva di uscirne, speriamo, molto presto. Chi è il pizzaiolo di cui vi propongo l'intervista questa sera? È il pizzaiolo di quartiere, qui fa pizza al taglio, lui è di origine albanese ma è a Trento da moltissimo tempo e mi ha raccontato, a debita distanza naturalmente con la mascherina, qual è la sua situazione. Ecco, io direi che ci salutiamo qui, subito dopo l'intervista la sigla, anch'io ringrazio i nostri ospiti e noi ci sentiamo domani sera, Francesca. Certo, sempre alle 19, sempre, potete sempre raggiungerci attraverso la nostra pagina Facebook Cura Radio Trento, oppure scriverci su curaradio@autistici.org, oppure lasciarci dei messaggi al numero di telefono 349-0535-715. In ogni caso potete insomma sempre interagire con noi con questi mezzi e soprattutto le vostre voci saranno quelle interessanti per noi per accompagnarci nella nostra cura collettiva. E allora sentiamo Perparim, il mio pizzaiolo di quartiere. Da quando è successa questa cosa, insomma, siamo proprio fermi proprio completamente. Io ho provato ad aprire, però anche all'inizio è tenuto aperto un po' di giorni, però la gente non veniva lo stesso. Siamo in difficoltà adesso. Poi dopo ho chiuso. Poi li ho aperto e sempre uguale, la gente non ha paura anche di chiamare, cioè sono poche, io fino adesso sono, faccio pochissimo, proprio pochissimo, per aiutare anche la gente, anche per dare una mano uno all'altro, se no non ce la faremo. Cioè in che senso dice aiutare? Io avevo messo anche su Facebook chi aveva bisogno nel nostro quartiere qua, poteva dare anche una mano senza niente, insomma, io certo. Offrivo da mangiare o qualcosa, no? Però lo stesso non c'è niente, insomma, neanche di quelli. E praticamente siamo fermi. Cioè io sono venuto oggi qua da quando tu mi hai chiamato alle 10:30, 11, insomma, sono venuto qua, non ho fatto neanche una pizza. Perché tu adesso fai consegna a domicilio? Noi facciamo solo consegna a domicilio, non possiamo fare altro. Siamo già che facciamo domicilio, abbiamo il nostro motorino e tutto, siamo tutto a posto, li portiamo a casa, facciamo decine di pizze al giorno, cioè insomma la serata, però cioè. Ma normalmente quante ne facevi prima di pizza? Ma sì, di più, cioè non è che facevo solo domicilio facevo magari 20 pizze, boh, che ne so, poi le gente venivano quasi tutti qua perché siamo. Ma per capirsi, in un giorno prima quante pizze facevi in tutto? Ma dipendeva, non è proprio, cioè facevi 30, 40, 50, dipende com'è la giornata. Ci lavoravamo, ci mangiavamo, non è che facevamo insomma granché, però ci mangiavamo, noi siamo in quattro in famiglia. E così con questo qua tenevamo la famiglia, mangiare, da bere, tutto. Invece adesso siamo fermi, cioè cosa fai? A fare 30 euro, 40 euro al giorno qua, o 50 euro, cosa fai? Tutti i giorni io ho tenuto il ceso e il forno, insomma, per aspettare se qualcuno ci chiama, niente. Ma la difficoltà non è solo da mangiare, perché da mangiare, meno male, ci arrangiamo. Il discorso è pagare l'affitto, io per esempio ho due affitti nelle spalle, più 500 euro sono dell'elettricità qua, no? Più a casa sono, io sono voglio 2.000 euro, di più di 2.500 euro insomma al mese, solo sto due, parte altre cose, più rifiuti, più queste che sono, io arrivo su 3-4.000 euro al mese di cose da pagare, di spese. Cioè, però adesso siamo così in difficoltà, non sappiamo come fare. Gli affitti siamo, io praticamente li ho già tenuti, fermati, speriamo cosa si dice in Stato, perché non è... Vorresti che ci fosse più sostegno da parte dello Stato, della provincia? Importante, importante questa. Poi dopo, se loro decidono loro, insomma, noi siamo... Se tu dovessi chiedere una cosa, cosa... Ma il discorso mio è di chiedere, di fermarci almeno nelle cose grosse, perché... L'affitto. Queste sono più importanti, perché meno male da mangiare, non è che ci moriamo, però... Quindi se l'affitto... L'affitto è di più, è questo, perché altre spese, la luce è questa, per esempio, in questo mese... Il forno. Il forno, non pago 500, pago 200, con quelli che mi rimetto insomma qualcosa, ma se io devo pagare l'affitto, tasse e tutto... Arriva fino al mese che io guardo con gli occhi aperti su, succede insomma, cioè, questo è il discorso. E comunque voi in famiglia, cioè qui a Trento, come state? Voglio dire, siete tutti a posto, un po' di paura anche? Paura c'è, come tutti, però siamo tutti a posto, tutti bene. Importante. Poi ti dispiace per tutti quelli che sono... andati via, insomma, perché fanno parte della civiltà, fanno parte della nostra vita anche quelli, anche se sono un po' anziani, sempre sono nostri nonni, sono nostri... E come la vedi? Pensi di farcela? Ma speriamo di farcela come tutti, perché io da solo come faccio? Dobbiamo essere tutti uniti per farcela, credo che così è... più meglio di così.